due relazioni di questa mattina che mi sono parse entrambe evidentemente molto interessanti, diverse fra loro, però mi pare che almeno c'è un elemento comune molto forte, che è quello di aver situato il problema come problema centrale dell'affermazione della teoria dello Stato di diritto intorno al fatto amministrativo. Ecco, questo mi sembra un discorso importante. È stato abbastanza casuale che le due relazioni, cioè voglio dire, le due relazioni non erano concertate l'una con l'altra, però trovo che sia sintomatico che sia emerso questo dato, ecco questo dato qui, che quindi la centralità dell'amministrazione per la genesi stessa del concetto di Stato di diritto consente tutto sommato di materializzare, no? Di dar contenuti precisi, molto storici, anche alla insistenza sul formalismo giuridico che soprattutto Cianferotti ha portato. Quindi questo è così il piccolo contributo che darei in apertura, anche al di là della importanza di questa dello strumento, insomma, del formalismo giuridico, c'è un terreno solido, molto concreto, molto materiale, che è quello dell'amministrazione. E naturalmente il discorso dell'amministrazione è un discorso che consente anche di uscire dall'ambito puramente giuridico, perché l'amministrazione è forse il luogo storico in cui, durante la grande trasformazione di cui stiamo parlando, convergono motivi, ragioni, esigenze, bisogni, problemi che riguardano ambiti diversi dell'agire sociale e politico. Quindi tutto quello che nelle due relazioni giuridiche di stamattina è stato espunto, perché non giuridico, quindi l'economico, il sociale, eccetera, mi pare che attraverso l'amministrazione così centrale dovrebbe poter rientrare. Questo mi pare un fatto molto importante. Detto queste cose qui, darei subito la parola, per esempio, a Umberto Allegretti, che l'ha chiesta. Però io mi chiedo se non ci siano quei bellissimi cosi volanti che noi avevamo, quegli aggeggi volanti, Gigi. Se ci fossero quei microfoni volanti, visto che li abbiamo, potremmo farli girare. Tutto questo al fine soprattutto della registrazione, poi non ne facciamo nulla in realtà, forse del dibattito che registriamo, nel senso che non abbiamo mai riprodotto i dibattiti, è difficile, insomma, eccetera. Ma è importante che ci sia. Intanto magari facciamo girare questo qui. Sì, ma arriva. Sì. Questo l'hai già detto tu, però. In realtà non so se il mio intervento dovrebbe avvenire così al principio della discussione. Non vorrei che seminasse confusione, però mi pare anche che la confusione sia fra gli obiettivi che Schiera ci ha posto, e quindi lo faccio. Si sente, si vede. Perché io vorrei attirare l'attenzione su un aspetto che non è direttamente sulle due relazioni che abbiamo sentito, un aspetto trascurato almeno dagli studiosi di diritto costituzionale e anche da quelli di storia costituzionale, che forse è un po' eccentrico, ma non peregrino, certamente, che per me negli studi che sto facendo, mi pare, negli interessi direi prima che negli studi che ho, mi pare fondamentale. Se e come nel concetto di Stato compaia, sia inclusa l'azione estera dello Stato. E questo mi pare importante anche dal punto di vista del concetto di Stato di diritto, col quale finisce con l'avere una precisa attinenza, sia se lo intendiamo nel senso formale che ci ha illustrato Cianferotti, sia se dovessimo metterlo in dialettica con altri possibili concetti dello Stato di diritto più sostanzialistici. Ecco, poiché questo è un seminario di lavoro, più che diciamo proporvi una mia teoria, anche se verrà fuori, o esporvi una mia idea comunque, vorrei proprio sentire che cosa ne pensate, ecco, di introdurre questo aspetto, in che modo possa essere considerato questo aspetto, se vi pare innanzitutto qualificante ed importante per lo Stato e per lo Stato di fine secolo e di inizio secolo introdurre questo elemento. Pensare di sì vuol dire partire intanto da alcune constatazioni di storia politica, ma non solo politica, insomma di storia in senso globale di quel periodo, tra 800 e 900, è l'età dell'imperialismo, come viene chiamata, e quindi a grandissimo peso, la politica estera e in essa l'espansione coloniale che giunge al suo acme in questa fine di secolo. La Germania realizza la sua espansione coloniale in questo periodo e realizza insieme l'avvio al massimo della sua presenza nel gioco delle potenze europee, che preparerà poi la Grande Guerra. L'Italia, uscendo dalle incertezze degli anni immediatamente dopo l'unificazione, si inserisce, vuole inserirsi quantomeno con una sua presenza di sesta grande potenza nell'Europa del tempo e finisce col realizzare, anche se in maniera un po' burattinesca, la sua politica coloniale. Ecco, potreste dirmi che questo però è solo un aspetto fattuale che non ha, diciamo, proiezioni sulla teoria, per esempio. Io replicherei intanto che ogni dimensione, come dire, abituale, costante in un certo fenomeno che abbia portata rilevante, come ricordavo appunto, ha avuto la politica estera e coloniale in questo periodo, deve avere un qualche apprezzamento costituzionale. Cioè, se la Costituzione non è solo la forma delle testualità che esistono, ma è insomma realtà operante. E secondo, che le assenze, per dir così, devono cooperare quanto le presenze, non so come dire, non so se riesco a farmi capire, a qualificare i principi, gli edifici costituzionali. Cioè, una Costituzione non si qualifica solo per le presenze ingombranti, eventualmente, di cui si qualifica, ma anche per le assenze, quantomeno se certe assenze concettuali, di teoria, di principi, sono correlative però a una prassi precisa e quindi sono assenze qualificate, per dir così. Quindi se anche dovessimo constatare, e penso che questo non sia lontano dal vero, che appunto nell'elaborazione concettuale di questo periodo la politica estera e la politica coloniale non figurano nel modello costituzionale, questo non sarebbe sufficiente a dire che noi non le dobbiamo correttamente introdurle. Ecco, e in realtà tra l'altro c'è una cosa da considerare, secondo me, di una notevole importanza, che nella grande tradizione precedente, di cui per quanto sia questa scienza, pur sostituendosi alla filosofia politica e ad altre cose, in qualche modo ha le sue radici lì, ecco, nella grande tradizione precedente, rappresentata ovviamente soprattutto dalla filosofia politica nel Settecento e nella prima metà dell'Ottocento, c'era una qualificazione precisa dello Stato dal punto di vista della politica estera. Adesso, senza andare al fatto che lo Stato nasce addirittura anche come figura di politica estera dal 500 in poi, questo è sicuro abbastanza, no? Comunque sono cose. Però se partiamo proprio dalle prime teorie, dal primo pensiero filosofico liberale, ecco, pensate a Locke, per esempio. Sappiamo tutti, anche se tendiamo a dimenticarlo, che i tre poteri di Locke, uno è il potere federativo, cioè il potere estero dello Stato. E il potere estero E c'è qualcosa ancora più a monte poi che vale per Locke come vale già per Hobbes, che lo Stato sorge per tutelare gli individui anche nei i cittadini, anche nei confronti di coloro che stanno al di fuori dello Stato, sia le potenze estere, sia i singoli sudditi stranieri. Quindi diciamo nella genesi stessa del concetto di Stato che Locke per esempio mette a suo fondamento, deve stare qualcosa che poi lo porta naturalmente a vedere uno dei poteri fondamentali dello Stato nel cosiddetto potere federativo. Inoltre in Locke c'è proprio una qualificazione di questo potere federativo dal punto di vista della rule of law. Il numero 100, mi sono fatto, scusate, il numero 145 del secondo trattato sul governo dice una cosa molto chiara, molto precisa: poiché lo Stato rispetto al resto dell'umanità, no, siccome i componenti di uno Stato rispetto al resto dell'umanità costituiscono un sol corpo, questo si trova rispetto al resto dell'umanità nello stato di natura. Quindi la politica estera è ancora, del resto era per Hobbes anche come sappiamo, un aspetto dello stato di natura che qualifica in questo modo, quindi non come stato assoggettato alla legge, lo Stato. L'intera comunità è un corpo solo, ripete ancora, tanto tiene al concetto, nello stato di natura di fronte a tutti gli altri stati o persone estranee alla comunità stessa. E allora ne viene la ragione per cui, secondo Locke, il potere federativo, che ha grande importanza per lo Stato, è però assai meno regolabile sulla base di leggi preesistenti. Noi sappiamo che il potere esecutivo interno per Locke è sottoposto appunto alla legge. Invece quest'altro, congiunto col potere esecutivo, come dice Locke, che è il potere federativo, è assai meno regolabile sulla base di leggi preesistenti, stabili e positive, e dunque il suo esercizio in vista del pubblico bene deve essere necessariamente lasciato alla prudenza e saggezza di coloro che lo presiedono. Poi dà le ragioni, adesso non posso dilungarmi, dà le ragioni che sarebbero anch'esse interessanti, ma insomma vorrei dire sinteticamente che per Locke, quindi, qui siamo fuori, in questa vasta azione dello Stato, fondamentale, importante per lui, siamo al di fuori dello Stato di diritto, consapevolmente e lucidamente. La Costituzione francese del 91, la prima Costituzione liberale rivoluzionaria, per meglio dire, ecco, come si comporta su questo terreno? Con una sua disposizione tenta un primo assoggettamento della politica estera in realtà al diritto, quando dice la nazione francese rinunzia ad intraprendere qualsiasi guerra in vista di fare conquiste e non adopererà mai le sue forze contro le libertà di altri popoli. Sentiamo l'eco anticipato di disposizioni attuali, delle nostre costituzioni attuali. Ebbene, quindi c'è un primo tentativo di sottoporre, dal punto di vista del diritto costituzionale, badate, al diritto anche l'azione estera dello Stato. Tuttavia sappiamo che questo è del tutto ineffettivo. Pochi mesi dopo l'Assemblea dichiara la guerra agli imperi, all'impero, o meglio non all'impero, ma insomma al re di Boemia ed Ungheria. Dichiara la guerra, e tutto l'atteggiamento susseguente della Repubblica Francese non è certo ispirato a questo principio pacifista. Questo tipo di disposizioni questa disposizione verrà ripetuta nella Costituzione Repubblicana del 1848 in Francia. Ma immediatamente la Repubblica Francese interverrà contro la Repubblica Romana, Martiniana, eccetera. Quindi, ecco, insomma, sono disposizioni ineffettive. Ce n'è un'altra invece che è effettiva e che è di segno contrario, nella stessa Costituzione del 91, che dice, l'articolo 8 dell'ultimo titolo, «Les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, quoiqu'elles fassent partie de l'Empire français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution». Quindi la Costituzione, il costituzionalismo, tutta la teoria dello Stato costituzionale, dello Stato di diritto, non si applica a quel vasto spazio che è incluso sotto la sovranità francese, le colonie e i possedimenti. Sapete da che cosa è nata questa disposizione, la questione di Santo Domingo, eccetera, ma insomma, quello che è importante è la vistosità, l'importanza proprio fondamentale che ha questo. Le garanzie sostanziali dello Stato di diritto, i diritti di libertà, eccetera, sono limitati ai cittadini francesi, ecco, e non a tutti i sudditi francesi. Hegel, sempre soffermandosi un po' sugli antefatti, Hegel, come sapete, valorizza enormemente la sovranità esterna, come la qualificazione addirittura più fondamentale dell'azione dello Stato. C'è il passo famoso della filosofia del diritto, dove lo Stato è definito essere per sé, proprio nella misura in cui agisce verso l'esterno, è esclusivo nei confronti dell'esterno, e in questa determinazione lo Stato ha individualità, proprio in quanto è esclusivo verso l'esterno. L'individualità come esclusivo essere per sé appare come rapporto con altri stati, dei quali ciascuno è autonomo di fronte agli altri. Poiché in questa autonomia l'essere per sé dello spirito reale ha il suo esserci, essa è la prima libertà e il supremo onore di un popolo. Quindi per questo filosofia politica, con tutta l'influenza che poi ha avuto, questo è addirittura nucleo fondamentale della presenza dello Stato. In un certo senso più importante del suo modo di essere nella politica estera, se interpreto bene questa frase, questo concetto. Ed è da questo poi che deriva, per esempio, una serie di giudizi che Hegel giovane dava sulla Costituzione della Germania, quando scriveva all'alba del secolo: la Germania non è più uno Stato. Perché lo scriveva? Perché nelle guerre contro la Francia gli stati tedeschi non avevano saputo mettere in piedi un reale esercito comune e non avevano condotto una politica estera unitaria. La sanità di uno Stato, scriveva, si manifesta in generale non tanto nella quiete della pace quanto nel movimento della guerra. Se fallisce sul piano della guerra, non c'è l'unità. La Germania, nella guerra contro la Repubblica Francese, ha fatto diretta esperienza di non essere più uno Stato. E quindi serve per i giudizi concreti sulla statualità questo tipo di valutazione. E da questo ancora nella filosofia del diritto potrà dare l'importanza che sappiamo alla guerra. Perché la guerra è salute etica dei popoli di fronte al rinsandarsi delle determinatese finite, ve li fa uscire dalla putredine, eccetera. Perché proprio è espressione di questo nucleo fondamentale dell'essere per sé dello Stato. Allora, con alle spalle questa elaborazione di filosofia politica precedente, la scienza giuspubblicistica italiana e tedesca di fine secolo, che cosa pensa? Ecco, come introduce questi elementi nella sua teoria? A me pare che si possa dire, non so se appunto poi se qualcuno può raccogliere, confermare o smentire, mi pare che si perda la qualificazione esplicita dal punto di vista della politica estera, dello Stato, nel senso che non compaiono più affermazioni di questo tipo, mi pare, nella scienza, se non con la idea preliminare che la sovranità è esclusività verso l'esterno. E allo stesso tempo quindi si mantiene però l'ordine precedente delle cose, e cioè la sovranità estera rimane una forza intatta, non limitata dal diritto. Ma appunto, siccome non è limitata dal diritto, poi non ci se ne occupa più nella teoria costituzionale. Però in limine c'è, alla soglia c'è quel concetto, poi ecco. E allora abbiamo appunto quest'idea della sovranità come esclusività, originarietà e esclusività sono per Santi Romano i due caratteri essenziali della sovranità. L'idea della separazione esposta dai nostri giuristi tante volte ancora, penso a Santi Romano per esempio, l'idea della separazione fra diritto internazionale e diritto interno, la separazione totale di due ordinamenti, per cui non ci sono poi norme dirette di collegamento, ecco, nasce ancora da quest'idea. E allora dice Romano, nel diritto pubblico italiano, il recente inedito pubblicato che aveva i tedeschi come punto di dialogo, perché era pubblicato per essere pubblicato in Germania, come sapete, nel diritto pubblico italiano scrive che il diritto interno, sul terreno delle relazioni internazionali, ha per oggetto non i rapporti fra Stati, ma fra i diversi organi dello Stato e fra esso e i suoi sudditi. E quindi regola gli organi, gli atti e l'attività da questo punto di vista, nella piena separazione rispetto a quello che invece sono i rapporti di diritto internazionale. Allora lo Stato di diritto da Ranelletti viene definito come Stato nel quale il diritto regola per quanto più è possibile la vita e l'attività dello Stato nei rapporti con i cittadini. Tagliata fuori tutta da questo concetto tutta Tanto è vero che non si estende, mi pare, a cui bisogna fare delle verifiche, non lo so bene, insomma, se studiando queste cose si potrebbe verificarlo, sono esclusi dai diritti fondamentali i sudditi coloniali, per esempio. Ecco, non so se questo è interamente vero, comunque, ecco, è un problema in ogni caso, e sicuramente c'è una tendenza a questo, perché non sono cittadini. Per gli stranieri, poi, gli stranieri, sia pure cittadini di altri stati europei o comunque dell'area che oggi chiamiamo sviluppata, che cosa vale? Vale la regola della reciprocità, quindi non hanno eventualmente i diritti fondamentali, non ricadono a pieno titolo nell'idea dello Stato di diritto, i rapporti con loro, solo se c'è una reciprocità, quindi ecco che ancora ha ricevuto nel nostro articolo delle disposizioni preliminari al Codice Civile del 1942 l'idea della reciprocità come base del trattamento dello straniero. I rapporti interni, l'abbiamo detto, i rapporti interni, certo, prendono in esame le relazioni internazionali, ma unicamente da quei punti di vista, regolando che cosa? Non i contenuti dell'azione estera, quindi, ma organi, procedure e attività di traduzione degli accordi o degli atti fatti verso l'estero in atti di diritto interno, come dice Orlando, eccetera. Ne vengono anche poi tendenze per quanto riguarda poi gli organi interni, perché se ho confrontato rapidamente ieri Orlando, Romano e Ranelletti, i tre grandi pontefici, e tutti e tre dicono, usando le stesse espressioni, che il re ha ius omnimode representationis all'estero, dello Stato. E si capisce, la giustificazione è quella di Hegel, che diceva che appunto, siccome è un individuo unico che si presenta all'esterno, lo Stato poi, ecco, si materializza nel sovrano che appunto traduce in pieno questa individualità. C'è un testo preciso di Hegel, come sapete, su questo. Ecco, certo, questa situazione non è quella dello Stato liberale di quegli anni. In realtà ci sono interventi del Parlamento sulla politica estera, come sappiamo, previsti anche dal nostro Statuto, su certi trattati. Tanto non su tutti, ed è ovvio, e non sulla guerra. La guerra, si dice che il re è competente non solo a dichiararla. Orlando e Romano dicono che quando lo statuto dice che il re dichiara la guerra, non è che la dichiara, la delibera, ne delibera l'inizio, ne regge la condotta e ne decide la cessazione. Quindi è veramente potere deliberativo. Ecco. Comunque c'è un qualche ruolo del Parlamento, almeno su alcuni trattati, in maniera modesta. Comunque Orlando dice chiaramente che è un ruolo secondario, limitato. Ecco, c'è quasi, qui c'è ancora lo Stato limitato, non c'è lo Stato costituzionale. C'è la monarchia limitata, non la monarchia costituzionale sul terreno della politica estera, neanche la monarchia costituzionale, non solo non c'è quella parlamentare. Abbiamo questo intreccio curioso, va bene. Nelle colonie poi ci sono discorsi interessanti di Romano che andrebbero visti bene, io ieri così ho visto rapidissimamente, non... però per esempio le colonie italiane sono state rette da una legislazione governativa per gran parte, anche se poi Romano affermava che c'era un ruolo del Parlamento nel dettare le norme per le colonie, ma anche questo è interessante, la difficoltà di arrivare insomma a far diventare elementi dello Stato rappresentativo queste porzioni del suo territorio che sono le colonie. Ecco, allora, mi avvio a concludere. Ecco, io direi che in definitiva, almeno dal punto di vista del diritto costituzionale, si può porre agli altri partecipanti al seminario questa domanda. Ecco, allora, vi sembra che lo Stato della scienza giuspubblicistica all'esterno resti ancora puro Stato forza? Ecco, confinato nell'esclusività, ecco, poi tutto il resto non è sottoposto al diritto? Quindi non delimitato e certamente non determinato dal diritto, ma semmai così, in qualche maniera puntiforme, dal diritto costituzionale. Poi certo ci sono una serie di limiti del diritto internazionale, ma sappiamo quanto poi poco operanti essi stessi. Si può dire quindi che lo Stato di diritto ha qui una fortissima restrizione? E guardate, allora rileggiamo la definizione di Ranelletti. Stato di diritto è quello Stato nel quale il diritto regola, per quanto più è possibile, la vita e l'attività dello Stato nei rapporti con i cittadini. Per quanto più è possibile, quindi ci sono una serie di sfere in cui Ranelletti sa bene che non è possibile, forse anche nel diritto di guerra verso i cittadini, ecco, allora andrebbe esaminata anche la legislazione dal punto di vista interno, la legislazione sulla guerra, perché il sacrificio di tanti diritti dei cittadini, anche degli stessi cittadini in guerra, anche questa è tutta una prospettiva che viene dentro, no? Questo discorso che, come vedete, è molto ramificato. Ecco, allora, proprio concludendo, io direi perché possiamo essere interessati a questo discorso. A me pare che è importante per l'oggi anche, perché oggi abbiamo nelle Costituzioni una serie di disposizioni che tentano sottoporre il contenuto della politica estera ad alcuni limiti. Per la prima volta rappresentano un tentativo di colonizzare da parte del diritto costituzionale il territorio della politica estera, e noi dobbiamo pensare subito all'articolo 11, non alle norme formali della nostra Costituzione che prevedono l'intervento del Presidente della Repubblica, del Parlamento, anche quelle che vanno avanti rispetto allo Stato liberale, ma soprattutto l'articolo 11, il pacifismo e l'accenno, molto sintetico ma sintomatico secondo me, alla giustizia internazionale, cioè a un principio non solo di pace ma anche di giustizia internazionale come direttiva necessaria per l'agire dell'Italia in politica estera. Allora c'è la Costituzione spagnola da esaminare, c'è quella tedesca, il principio pacifista nella Costituzione tedesca è ampiamente svolto, tanto da configurare dei reati contro la pace internazionale. Nella Costituzione spagnola, che è più recente, ci sono alcuni aspetti, alcune Costituzioni latinoamericane, ecco, fra i trattatisti italiani però queste cose non sono entrate ancora. Mi è giunto però sul tavolo proprio in questi giorni un manuale di Rolla, l'ultimo credo manuale di diritto, di istituzioni di diritto pubblico uscito. Ecco, Rolla dà una notevole importanza a queste disposizioni, direi il primo manuale che ho visto fare questa operazione, e questo è significativo, insomma, che è una direttiva di marcia su cui siamo avviati sul piano, come dire, anche teorico. Ma poi ci sono elementi fattuali, cioè di legislazione ordinaria. Intanto, sul piano costituzionale c'è la norma sullo straniero, che è molto diversa da quella di un tempo, perché lo straniero ha tutti i diritti riconosciutogli dalle norme internazionali e dai trattati. Non c'è più quindi il principio di reciprocità oggi. E allora ecco l'avvento della legislazione ordinaria. Negli Stati Uniti molta legislazione ordinaria sulla politica estera, ma anche in Italia queste leggi degli ultimi anni, le leggi sugli immigrati, l'ultima, le leggi sugli aiuti ai paesi del terzo mondo di 2 o 3 anni fa, ma anche precedenti. Ecco, allora mi pare importante che noi rintracciamo anche gli antefatti storici. Ecco, noi siamo di fronte oggi a un inizio di rovesciamento di una lunga storia su questo terreno. Se volete, nei termini di cui ci stiamo occupando oggi, forse ha un tentativo di portare avanti l'impero del diritto su un territorio, del diritto interno anche, oltre che del diritto internazionale, evidentemente i due punti vanno di pari passo e oggi c'è un collegamento, a differenza di ieri, fra diritto internazionale e interno. Ecco, c'è tutto un territorio nuovo. È importante però sapere che nell'armamentario concettuale di cui ancora ci valiamo, questo non era scontato. E quindi forse, ecco, è importante che lo studiamo storicamente, perché si rivelano certe restrizioni più chiaramente nella storia e quindi siamo anche più illuminati sulle fatiche che dobbiamo compiere oggi per rideterminare eventualmente questi aspetti. Sì, inutile dire quanto siano importanti questi suggerimenti qui. Io penso addirittura al fatto che probabilmente seguendo questa strada si potrebbe arrivare anche a introdurre un tema che è stato brillantemente spunto dalla storia della dottrina dello Stato degli ultimi 200 anni, e cioè il problema della guerra civile, cioè della guerra interna. E io vorrei anche dire che qui, seguendo la traccia che ci ha fornito Allegretti, anche al di fuori della tematica giuridica, bisognerebbe riflettere sull'importanza che la riflessione sulla guerra ha avuto a partire dal primo 800 rispetto alla definizione della politica, insomma, stessa, quindi in termini di scienza politica. E quindi il binomio Clausewitz-Schmitt diventa effettivamente impressionante da questo punto di vista. E per ultimo, sempre per venire ai giorni nostri, credo che le tematiche relative, per l'Italia in modo particolare, le tematiche relative proprio al problema della guerra civile, insomma, della guerra interna, no? Di tutto quello che noi abbiamo patito e stiamo patendo ancora in questi giorni per quanto riguarda il terrorismo politico e via dicendo, ha a che fare con queste cose qui. Quindi credo che sia ancora più profondo questo perché ci riconduce forse, se passiamo dalla guerra estera alla guerra interna, ritorniamo dentro nel campo dello stesso diritto costituzionale, insomma. Quindi ti ringrazio molto per questa cosa che spero che verrà poi ripresa. Hanno chiesto adesso la parola Ottodan, Schulze e Mazzacane, quindi darei a Ottodan e poi c'è Pombeni e poi c'è Calise. Darei il microfono a Ottodan che è là dietro. Dunque noi andiamo avanti fino alle... possiamo... Bitesea. Ja, also mein Beitrag bezieht sich auf den Vortrag von Klaus Luig. Insofern gehen wir auf den Ausgang zurück. Ich möchte mich beteiligen an den Versuchen, das Konzept von Gneist richtig einzuordnen in die Situation der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder genauer gesagt der Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie haben auch die Aporien, in die Gneist gekommen ist, nicht selbst gekommen ist, sondern auch mit der weiteren Entwicklung dann sein Konzept geführt hat, ja sehr eindrücklich auch schon benannt. Ich schlage vor, Gneist vor allem aus zwei grundlegenden Erfahrungen her zu erklären, die er in der Mitte des Jahrhunderts gemacht hat. Das ist einmal das politische Scheitern des Parlamentarismus in der Revolution von 1848-49. Das ist ein Grunddatum für die weiteren verfassungsgeschichtlichen Überlegungen, nicht nur von ihm, sondern sozusagen ja von der ganzen Intelligenz nach 1848. Und die persönlichen Verstrickungen in dieses Scheitern sind ja deutlich geworden. Es ist nicht nur ein Scheitern in Frankfurt gewesen, sondern eben auch ein Scheitern in Berlin. Und wenn man eben einfach von der königlichen Armee aus Berlin weggejagt wird, wie das mit dem Parlament in Berlin, das war ja auch eine Nationalversammlung, geschehen ist, dann hat das seine Nachwirkungen. Der zweite große Eindruck sind die sozialen Folgen der forcierten industriellen Revolution, die nun in Deutschland ja mit 1850 ganz besonders stark das Denken der Zeit bestimmen. Und wenn wir hören, dass Gneist in dem Verein für das Wohl der arbeitenden Klasse schon vor der Revolution engagiert ist, dann wissen wir, dass er hier in einer besonderen Weise sensibilisiert war für diese neue Klassenfrage, die die Gesellschaft der zweiten Hälfte des Jahrhunderts und alle weiteren Probleme, die sich daraus ergeben, bestimmt. Also das Scheitern des Parlamentarismus. Sie haben nun sozusagen die parlamentarische Demokratie, Herr Luig, als eine von heute her gesehen mögliche Alternative in den Raum gestellt. Ich frage, wie weit ist das gerechtfertigt? Können wir wirklich in dieser Form mit Gneist argumentieren? Und ist das, und wie können wir überhaupt die Verfassungsentwürfe der zweiten Hälfte des Jahrhunderts verstehen? Denn dieses Scheitern von 1848 war ja nicht nur ein Scheitern in Deutschland, sondern in Italien und vielen anderen Staaten. Was bot sich als Alternative einer politischen Verfassung nun an nach 1848? Zunächst war das Napoleon Bonaparte. Also dieses merkwürdige System einer neuen Umgangsform mit der Massengesellschaft. Was gab es an parlamentarischen Systemen überhaupt, müssen wir fragen. Ich habe eben mit Herrn Dipper darüber gesprochen. Es ist im Grunde genommen Belgien als wichtigstes eigentlich zu nennen. Und ja, in England kann man in diesem Sinne auch nicht als ein wirkliches parlamentarisches System damals bezeichnen. Aber jedenfalls, wenn wir es auch so nehmen, dann müssen wir doch von diesen beiden Parlamentarismen sagen, dass sie eben eindeutig in der Hand der kapitalistischen Bourgeoisie waren, diese Parlamente, und Politik in deren Interesse machten. Und das konnte für einen Gneist, der sozial engagiert war, der gerade die soziale Frage lösen wollte, nun wirklich nicht der Ausweg sein. Von daher denke ich, dass ein Zeitgenosse wie er auf dieses Konstrukt des Königtums kommen musste in Preußen. Wobei ich davor warne, hier den Begriff Königtum zu stark in den Vordergrund zu stellen. Ich sehe bei Gneist dahinter sozusagen den königlichen Beamtenstaat, den königlichen Rechtsstaat mit der großen Tradition, nicht zuletzt eben philosophisch durch Hegel und so überhöht, oder beziehen wir uns auf die Historiografie, am deutlichsten sicher in seinem Ethos und in seiner Sozialgeschichte, in dem großen Buch von Reinhard Koselleck erarbeitet. Also Königtum bedeutet nun für Gneist von daher wirklich nicht ein neuer Absolutismus, nicht, sondern eben gerade Durchsetzung rechtsstaatlicher Verhältnisse auf dem Hintergrund einer Beamtentradition in Preußen, die nun eben als ihr besonderes Verdienst im Rücken hatte, das darf man nicht übersehen, zwei große modernisierende Schübe, einmal die steinhardenbergischen Reformen und dann als zweites nämlich Zustandekommen des deutschen Zollvereins, also beides bleibende politische Verfassungswerke, die, und das ist sehr wichtig, nicht zustande gekommen sind durch einen innenpolitischen Druck, sondern durch sozusagen eine freie Initiative, die aus der liberal denkenden, aufgeklärten Beamtenschaft Preußens selbst hervorging. Also im Unterschied zum Beispiel zu den englischen politischen Modernisierungsfortschritten der ersten Hälfte des Jahrhunderts, die ja immer durch innenpolitische Bewegungen zustande gekommen sind. Gneist hat natürlich gehofft, und das war sein Anliegen, dass er diesen preußischen Beamtenstaat, den er ja dann zum Nationalstaat weiter oder ausprojektierte, auf die soziale Frage verpflichten kann. Das war seine große Hoffnung, und wir wissen, wie problematisch von heute her das gewesen ist. Wir müssen uns nur fragen, was gab es für Alternativen wirklich? Wichtig sicher für ihn, dass sozusagen das Gegenlager an der Basis durch die demokratisch strukturierten Selbstverwaltungen. Das ist ein eigener Gedankenkreis und es ist sicher ein großes Problem seines Systems, wie das sozusagen mit der Staatsbürokratie und ihrem Wirken zu vereinbaren ist. Ich möchte also abschließend sozusagen noch einmal plädieren dafür, dass wir für die Zeit von 1850 bis 1890 etwa für alle politischen Verfassungsüberlegungen und Konzepte, die entwickelt wurden, die Verarbeitung der gescheiterten Revolution von 1848 in Anschlag bringen. Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen und sozusagen eine Erfahrung, die diese Generation im Rücken hatte, von der nicht zu abstrahieren ist. Grazie, solo brevemente per gli amici italiani che non posseggono perfettamente la lingua tedesca. L'intervento di Dan era per sottolineare come due presupposti fondamentali storici siano necessari per comprendere Gneist e la sua idea di Königtum, di monarchia. Primo, il fallimento politico del parlamentarismo nel 48-49, non solo a Francoforte ma a tutto campo sulla situazione tedesca. Secondo, le conseguenze sociali dell'industrializzazione forzata a partire dagli anni 50. Si chiede appunto, Dan sostiene che per comprendere il significato della monarchia per una teoria dello Stato come quella di Gneist, ma io potrei aggiungere che lo stesso discorso vale in grande misura anche per Stein, bisogna appunto tener conto di queste due realtà e bisogna chiedersi quali altre possibilità reali erano in effetti presenti all'epoca per sviluppare una teoria politica adeguata. E allora il discorso della monarchia per Gneist non è da vedere come tentativo conservativo di reintrodurre principi assolutistici o non assolutistici, ma come la forma storicamente adeguata per realizzare lo Stato di diritto nell'ambito, nell'alveo della tradizione impiegatizia, burocratica, prussiana e tedesca. Quindi richiamo a questo, a questa determinatezza storica, insomma, che condiziona questo, questa teoria. Molte grazie. A Schulze, ora il microfono, per favore. Ich möchte in diesem interdisziplinären Kontext die Frage Verwaltung und Rechtsstaat, die ja von Herrn Skerda nochmal an den Anfang der Diskussion gestellt wurde, zunächst spezifisch von der juristischen Seite her angehen. Juridifizierung, rechtliche Fassung des Wissens über Verwaltung, das ist ja ein großes Thema im späten 19. Jahrhundert, das sich in verschiedenen Formen in Frankreich, Deutschland, Italien stellt. Und wenn man sich überlegt, wie nun eine solche Juridifizierung des Denkens über Verwaltung durch Juristen vorgenommen werden kann, dann muss man sich, meine ich, vor Augen führen, dass die Modelle juristischen Denkens, jedenfalls in Deutschland, ganz primär im Bereich des Zivilrechts, der Zivilistik, vorgeformt waren. Das hat Herr Gianferlotti mit den Hinweisen auf die Pandektistik, ich komme gleich nochmal darauf, ja angesprochen. Also die Schulung des juristischen Denkens, die Begrifflichkeit, die war von der Zivilistik vorgeformt und damit stellt sich im Grunde das Thema Verwaltungsrecht und Zivilistik. Und Herr Luik hat das ja beinahe spielerisch an den Anfang seines Vortrages gestellt. Darauf möchte ich jetzt zurückkommen. Ich möchte darauf zurückkommen, nämlich sozusagen zwei Personen, die vielleicht etwas zu kurz gekommen sind, hier nochmal anspreche. Herrn Luik als Romanist und Lorenz von Stein. Lorenz von Stein hat, wenn ich mich recht erinnere, in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts in einer herrlichen Polemik gegen das römische Recht gewettert. Und zwar gerade in dem Kontext, den wir hier diskutieren, nämlich das römische Recht als Gefahr für ein entstehendes Verwaltungsrecht, das verbunden sein sollte, dieses entstehende Verwaltungsrecht, mit einer Verwaltungsrechtsprechung, mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Wo sind denn im römischen Recht irgendwelche Actiones gegen den Prätor? Die gibt es nicht, sagt Lorenz von Stein. Und wenn wir uns am römischen Recht orientieren, werden wir nie zu einem vernünftigen Verwaltungsrecht, was im Wege des Verwaltungsrechtswege vor den Verwaltungsgerichten durchsetzbar ist, gelangen. Also müssen wir uns lösen vom römischen Recht. Dürfen wir keine Romanisten mehr sein als Verwaltungsrechtler? Wenn ich das konfrontiere mit dem, was Herr Gianferlotti gesagt hat, dann überrascht das vielleicht zunächst. Als einer Ihrer Ansatzpunkte haben Sie sich ja damit auseinandergesetzt, dass die kategorialen Vorbilder, die in der Pandektistik gelegen haben, dass sozusagen eine Transformation erfolgt. Und in der Tat, glaube ich, ich stimme Ihnen da vollkommen zu, muss man da den Ansatzpunkt sehen. Aber gewissermaßen im nächsten Schritt wird dieses entstehende Verwaltungsrecht zum Vatermörder. Es nimmt seine Kategorien aus der Pandektistik, Begriffe wie juristische Person, wie Vertrag, öffentlich-rechtlicher Vertrag. Ich glaube übrigens auch, dass der Verwaltungsakt gedanklich nicht weit weg ist von dem theoretischen Prinzip, was in einem Rechtsgeschäft steht. Man nimmt dort ja die Kategorien, aber für die speziellen materiellen Bedürfnisse, die sich auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts stellen, muss man sich nun von dieser pandektistischen, romanistischen Tradition lösen. Und man sagt, mit Lorenz von Stein jedenfalls, wir dürfen jetzt keine Romanisten mehr sein. Meine Frage an Herrn Luik hier in dem Zusammenhang wäre, Gneist als Romanist von der Herkunft her, konnte er es nachher noch sein? Wie weit war er auch in diesem Punkt von Stein beeinflusst? Vielleicht, so möchte ich spekulieren, ich weiß es nicht, musste er nicht sogar noch härter sein als Stein gegenüber dem römischen Recht? Denn wenn er sein ganzes Rechtsstaatsdenken vom Pflichtenprinzip her konstruieren will, dann muss er ja gegenüber dem Aktionensystem, vereinfacht gesagt, gegenüber dem Anspruchsdenken des römischen Rechts für die Verwaltung, für den öffentlichen Bereich, sehr ablehnend eigentlich sein. Meine zweite kürzere Bemerkung ist eigentlich eine volle Zustimmung zu dem Aspekt von Herrn Luik, dass er die Monarchie als ernste Frage ernst genommen hat für diese Zeit und nicht unsere Vorstellung, so leicht wie es vielleicht die Versuchung ist, rüberstülpt, das ist ja sozusagen schon erledigt gewesen. Auf der politischen Ebene ist es nicht erledigt gewesen, wie Herr Dann gesagt hat, und zwar glaube ich vor allem, da stimme ich ihm zu, wegen der gescheiterten Revolution 48-49, aber vielleicht auch wegen der zweiten Erfahrung, die sich daran anschloss, der nicht erfolgreich durchgefochtene preußische Verfassungskonflikt, in dessen Verlauf ja Gneist sozusagen ins andere Lager übergeht, wenn ich es richtig sehe. Aber auf der Ebene der Legitimation, jetzt nicht auf der staatsrechtlichen und politischen Ebene, sondern noch allgemein auf der Ebene der Legitimation von Staat, glaube ich, sind für Gneist, für diese Generation, die Fragen auch noch nicht so lange geklärt wie für uns. Die Monarchie als eine transzendental oder zumindest metaphysisch-philosophisch begründete Größe ist noch nicht so lange tot in dieser Zeit. Insofern halte ich auch diesen Rückgriff auf die fränkische Zeit der Luik, da stimme ich Ihnen auch vollkommen zu, bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie das genannt haben, nicht etwa für eine Anekdote oder für ein bisschen historische Spinnerei. Vielleicht hat es der Gneist nicht ganz scharf gesehen, aber in der Tat, in der fränkischen Zeit, da fängt das ja an. Mit Pippin haben wir, bis heute schärfer Sie können, mit Pippin haben wir erstmal die Begründung des Königstums durch die Gratia Dei, durch die Gnade Gottes. Eine transzendentale Begründung. Und das endet in der Generation vor Gneist. Und zwar im Grunde, und da kommen wir wieder auf den Ausgangspunkt von Herrn Gianfilotti zurück, auf die kalte Art der Juristen. Die formen den Staat um in eine juristische Person. Nicht transzendentale Begründung, auch nicht mehr Pathos des metaphysisch-naturrechtlichen, sondern ganz kalt für operierenden Staat als juristische Person. Und auf dem Hintergrund, glaube ich, ist eben auch für die Legitimationsfrage vieles noch weniger gesetzt gewesen in der Zeit und die Monarchie eben wirklich noch ein größeres Problem gewesen, auch wenn man dann wohl zugeben muss, dass gegenüber den älteren Begründungen eine Begründung der Monarchie mit dem Pflichtgedanken ein bisschen, sagen wir mal, weniger pathetisch, ein bisschen kläglicher wirkt. Molte grazie, ancora brevemente. Il problema rapporto amministrazione Stato di diritto dal punto di vista della giuridificazione del sapere sull'amministrazione. Questo è il problema che c'era, però appunto questa giuridificazione è determinata dalla prevalenza dei modelli del diritto privato. Questo è il punto. Allora Schulze ricorda che Lorenz von Stein, di cui non abbiamo parlato, ma che però era previsto nell'ombra, insomma, negli anni 70 conduce una forte polemica contro il diritto romano, nel fondare il suo diritto amministrativo, o forse meglio la sua scienza dell'amministrazione. Dice nel diritto romano non è prevista azione contro il pretore. Quindi il diritto romano non ci serve più a noi se vogliamo realizzare invece lo Stato amministrativo. E allora c'è questa contraddizione, da un certo punto di vista, tra questo diritto amministrativo, che dipende concettualmente dal diritto privato, ma che ha bisogno di uccidere diritto privato, cioè il diritto romano, per potersi realizzare. E Gneist, che era romanista, come si situa rispetto a questo problema? Domanda a lui. Forse però, suggerisce Schulze, è ancora più dura la sua posizione verso il diritto romano di quella di Stein. Viene fuori di nuovo il problema della monarchia. Il problema della monarchia, riprendendo anche le considerazioni di Dan, la monarchia allora, a quell'epoca, nella tradizione soprattutto tedesca, ha ancora una dimensione trascendentale, forte, superstorica, forte, tale da condizionare inevitabilmente la concettologia. Il problema è di tradurre questa dimensione, poi hegeliana, della monarchia, in termini giuridici. Quindi qui è l'enjeu, insomma, il punto cruciale della questione. È un problema di legittimazione che Kneist affronta, lo affronta fondando la monarchia sul principio di dovere. Ecco, qual è, la domanda a Luig, la posizione di Kneist in questo groviglio? Vorrei approfittare per ricordare, perché lo faccio sempre ogni volta e non posso fare a meno di farlo, un bellissimo saggio di Otto Brunner che è intitolato Vom Gotteksgnadentum zum Monarchenprinzip, che c'entra perfettamente con questa tematica e che, per non dire dei saggi precedenti di Hinz sul problema della monarchia, della costituzione monarchica, insomma, tedesca, a differenza di quella invece, per esempio, inglese, parlamentare. Aldo Mazzacane. Io molto brevemente, veramente due parole soltanto, perché credo che è bene snellire un po' i lavori dato il numero delle relazioni, anche degli interventi. No, no, andava bene, andava bene. Va bene, allora. Dunque, no, io volevo riprendere. Basta parlarci dentro. L'importante, sì, volevo riprendere un momentino, soltanto una. L'intervento di Allegretti richiama la nostra attenzione su un aspetto di grande importanza, sul quale confesso di non avere riflettuto abbastanza e quindi di dire adesso delle cose un po' improvvisate anche dal punto di vista della riflessione. Però certo voglio dire subito che io ho qualche perplessità. Ho qualche perplessità a condividere appieno quello che Allegretti diceva, e cioè il dubbio che in lui sorgeva circa il fatto che la dimensione internazionale scompaia dall'orizzonte visivo della nozione di Stato di diritto e in genere della giuspubblicistica, della costituzionalistica di questo periodo. Certo, se pensiamo a giuristi della linea orlandiana, tanto per intenderci brevemente, e qui il dubbio naturalmente non può esservi, però non saprei dire fino a che punto questo possa viceversa valere per scuole, per orientamenti diversi. Soprattutto, ecco, forse, soprattutto non saprei se in relazione proprio a questo discorso noi possiamo escludere del tutto da un profilo di rilevanza costituzionale la riflessione di alcune scuole internazionalistiche, che sono anch'esse diverse, diversificate. Voglio dire, certo, se noi pensiamo alla scuola internazionalistica italiana che si fonda con Anzilotti, anche tra l'altro attraverso relazioni con pensiero tedesco, e che segue, dico per brevità, segue un orientamento formalistico del tipo dei procedimenti che ci ha descritto così bene, così accuratamente stamattina Cianferotti. Certo, lì in quella linea, in quella scuola, c'è lo Stato sovranità, c'è il problema del confronto tra ordinamenti, c'è il problema della reciprocità e così via. Ma se noi pensiamo però ad un altro filone internazionalistico che attraversa tutto l'Ottocento, che certo un bel momento sparisce, viene sacrificato, la linea, diciamo, della scuola cosiddetta napoletana, da Nicola Rocco a Mancini fino a Pasquale Fiore, lì ci sono linee di sviluppo diverse, Perché se prendiamo per esempio già l'origine di questo pur cautissimo funzionario che cerca di non sbilanciarsi durante la restaurazione, come Nicola Rocco, c'è un momento di giro di vite borbonico, ma certo lui utilizza una serie di ingredienti che vanno da ingredienti tardo-illuministici a radici amministrativistiche. Lui poi nasce in fondo in contatto con questa scuola di diritto amministrativo del meridionale, in cui il tentativo è certamente quello di fondare, diciamo, di andare oltre il problema della traduzione nell'ordinamento interno di atti di un ordinamento esterno. E il discorso forse andrebbe fatto, io non, per l'appunto non ho riflettuto su questo, ma certamente su Mancini andrebbe forse riflettuto molto, perché certo noi su Mancini sappiamo, su Mancini internazionalista si accenna sempre alla questione dell'aver fondato il diritto internazionale sul concetto di nazionalità, è quello che più o meno viene ripetuto, che è una semplificazione di tutta l'elaborazione manciniana da una parte, e che dall'altra però comunque già fornisce un indizio nella direzione di un tentativo di vedere una rilevanza costituzionale della proiezione esterna o comunque delle relazioni esterne. E Mancini poi è ministro degli esteri, come ricordiamo, è presidente dell'Institut du droit international di Ginevra, dove svolge anche un'azione. E questa linea non termina con Mancini, perché questa linea va avanti anche, appunto, dicevo prima, con Fiore, con altri, e anche se per l'appunto poi sulle soglie della Prima Guerra Mondiale direi che si perde. Ed è una linea dove mi sembra che il tentativo sia quello, appunto, di individuare le possibilità, quantomeno, di una fondazione dei diritti di garanzia individuale. Certo, e qui il discorso mi farebbe troppo lungo e quindi lo tronco qui, certo, qui lo strumentario, anche in questo settore, lo strumentario è individualistico, è di quella stessa marca civilistico-romanistica. Non è un caso che questa scuola si occupa prevalentemente di diritto internazionale privato, anziché di diritto internazionale pubblico. Ma questo poi è un discorso molto lungo. Ripeto, mi sono venuti tutti questi dubbi e li ho espressi a voce alta. Grazie. Mein Deutsch ist zu schwach, um eine auch nur kurze Übersetzung der italienischen Beiträge zur Diskussion zu machen zu können. Ich werde nur sehr kurz sagen, dass Herr Mazzacane über Allegretti sagt, dass ja die Abwesenheit einer juristischen Reflexion über die internationale Seite des Rechts kann stimmen für die Verwaltungsrechtler. Aber man müsste auch die Verarbeitung der Internationalisten auch studieren, analysieren. Und in diesem Sinne gibt es eine Reihe von Schulen in Italien, die nach Mazzacane versuchen, das Thema Außenpolitik auch zu juridifizieren. Das ist alles. Pombeni, per favore. Volevo intervenire sulla stimolazione di Allegretti e di Schiera, anche per far sentire una voce di senso e anche non parziale. Cioè, io credo che in questo modo di porre il problema ci siano diverse cose da rilevare. Primo, un problema di tipo metodologico. Cioè, io non credo che ci porti molto lontano la totalizzazione dei problemi. Credo che sia un modo terribile di fare storia, questo di voler arrivare alla storia totale. E quindi io respingerei, per quel che è possibile su un piano di ricerca, l'ipotesi di allargare, di mescolare questa una nozione tipicamente elaborata ai fini della ristrutturazione dell'ambito del politico, che è sempre un ambito interno, almeno in questo aspetto, a un ambito del politico come l'ambito internazionale, in cui i problemi sono diversi. Non ultimo, questa distinzione fondamentale, che mentre la strutturazione del politico nell'ambito interno si regge sulla eliminazione del concetto di uso della forza fra le parti come uso legittimo, se non come uso eccezionale, no? Il monopolio della forza è un principio fondamentale, questo nel diritto internazionale non esiste e non può esistere. Fra parentesi, tutte le volte che è esistito ha portato soltanto disastri. Ogni Stato che si è fatto Stato poliziotto ha fatto più disastri che bene. Questo mi pare un primo problema completo. Il secondo problema è che mi pare che le cose sono un po' più complesse di quelle che sono state prospettate. Vengo a questo problema dei principi di reciprocità, per esempio. Io non sono un giurista, d'altronde penso sinceramente quello che Bismarck pensava della guerra è una cosa troppo importante per lasciarla solo ai militari, così penso che il diritto sia una cosa troppo importante per lasciarla solo ai giuristi. Allora, il problema, io credo che bisogna porre una distinzione fra i diritti dell'uomo e i diritti del cittadino. Non mi pare che esista in questi stati, per quanto ne so io nella mia ignoranza, un problema di reciprocità sui diritti dell'uomo. I diritti dell'uomo sono dati in tutti i sistemi per scontati e per applicabili a chiunque. Poi ci sono dei diritti di altro tipo che nel mio tardo liberalismo, secondo me giustamente, vengono applicati solo sulla base o del diritto di reciprocità o sulla base del diritto di fondamento. Qui siamo in sede storica, ma vorrei aprire interessanti discussioni su questo sistema delle leggi sull'immigrazione recenti che stanno distruggendo il sistema dello Stato perché distruggono il problema reciprocità delle prestazioni. Lo Stato dà delle cose a delle persone perché queste persone sono membri di una comunità che le ha prodotte. Qui adesso noi stiamo estendendo questa roba sulla base di un tardo religioso, non so come dire, un tardo cattolicesimo, di una cosa come una storia di diritto universale, e questo porrà qualche problemino fra una ventina d'anni, ma questa è una battuta. Quindi credo che questo problema, per esempio, concettuale, diritti dell'uomo, diritti del cittadino, sia un problema importante. Altro aspetto importante, secondo me, non è detto che, cioè Cianferotti ha detto delle cose molto interessanti che io apprezzo molto e mi paiono fondamentali su come abbiamo costruito questa interpretazione giuridica per cui i giuristi dicono com'è veramente la realtà. Però se è vero questo, non è vero che l'operazione sia esatta. Allora, non è che la Costituzione italiana sia quello che hanno descritto Orlando, Ranelletti, Romano, eccetera, eccetera. La Costituzione italiana è anche altre cose. Non è sufficiente dire che Orlando parla del re in una certa maniera per pensare che il re fosse quello. Perché certamente, a termini di statuto, strettamente, metà della vita costituzionale italiana era fuori regola. No, metà della vita costituzionale italiana poteva andare in una maniera diversa. La cosa non va in questa maniera perché tutta un'altra scuola di giuristi che noi abbiamo messo fra parentesi, ma diciamo Aranjo Ruiz per dire un nome, diceva delle cose differenti, diceva quello che si dice in tutti i paesi di questo mondo, la Costituzione è al tempo stesso leggi, interpretazione delle leggi e prassi costituzionale, che ne sia dell'interpretazione delle leggi. Allora, io mi chiedo, e qui faccio una domanda che secondo me è rilevante sul piano scientifico, quando si parla della rappresentanza esterna del re, eccetera, eccetera, si parla del monarca o si parla di un principio? Cioè, parlo in termini banali, il problema è, si dice che il re decide quello che vuole della guerra o che il principio rappresentativo che parla di decisione, il cui iter di conoscibilità nella discussione è esplicito in tutta una serie di cose, diventa non più conoscibile e non più valutabile? Per ragioni di prassi obiettiva in questi casi, io propendo per la seconda decisione, cioè c'è più un problema di segreto rispetto al modo di formazione di queste decisioni, cioè di modo diverso rispetto alla discussione aperta, alla legittimazione dell'opposizione, eccetera, eccetera, che non un problema di, consentitemi di dire, una battuta di assoluto. Ultimissima questione in una battuta sul problema della guerra civile. Ecco, io penso che c'è una cosa che non si può costituzionalizzare, è la guerra civile. Il diritto privato ha stabilito che la libertà dei cittadini finisce contro se stessi. Non si può suicidarsi, non si può neanche, tutti i diritti di questo mondo, procurarsi lesioni permanenti. La guerra civile è il momento in cui, per definizione, una parte mette in discussione la Costituzione. Se si accetta che la Costituzione regoli la possibilità violenta di mettersi in discussione, secondo me noi abbiamo distrutto il costituzionalismo così come è stato prodotto. Il che è un'operazione legittima. Alla quale però io non mi vorrei prestare per quanto mi è possibile. Ja, das ist noch schwieriger natürlich. Es ist eine Polemik gegen Allegretti. von Beni sagt, dass man müsste vielleicht lieber am Gebiet der Innerlichkeit des Staates sich beschränken, sonst würden die Probleme zu viel auch konfus sein. Und er sagt auch, dass was das Prinzip der Reziprozität in der juristischen e ci dobbiamo concludere senza essere strangolati, perché siamo qui per discutere, quindi la discussione è la parte più importante del nostro incontro, come sempre. Dobbiamo concludere la discussione sul tema di questa mattina, che si è rivelato un tema evidentemente molto ampio. Si era prenotato a parlare Fioravanti, però io non so se c'è Cianferotti, perché probabilmente ci sarà, bisognerebbe che Cianferotti ci fosse. Non l'avete visto? Tu, Aldo, non sai dove sia Cianferotti, non l'hai più visto. Vabbè, però questo è... Non è che puoi andare fuori a vedere una cosa se c'è per caso Gigi Cianferotti in giro, non so, dirgli che cominciamo. Perché sarebbe utile, insomma, che ci fosse. Immagino che Fioravanti interverrà su di lui. E basta, insomma, va bene. Ci sarebbero tante cose da dire, come evidentemente è sempre così. Insomma, d'altra parte non si riesce a... Noi non abbiamo mai l'obiettivo di tirare le fila, ecco, più che altro abbiamo l'obiettivo di mettere lì delle idee, e questa cosa che ha aperto anche in particolare Allegretti è una cosa che è data a pensare e riapre una serie di interrogativi proprio anche sulla validità, alla fine mi pare anche sulla validità ermeneutica di questo concetto di formalismo giuridico come insomma, unico, perché questi buchi che forse ci sono, ma poi Mazzacane dice che forse questi buchi non ci sono, comunque bisognerebbe studiare, insomma, ecco, è proprio un bel campo di azione. Comunque io chiederei a Maurizio lo stesso, anche in assenza di Cianferotti, di dire quello che pensa, perché sennò qui... Ma dunque intanto inizierei non con Cianferotti, insomma. Perfetto. Inizierei dalle cose che diceva Pierangelo Schiera all'inizio di questo incontro, insomma, che a mio avviso delineano insomma un piano di lavoro che chi ha frequentato Trento in questi anni conosce già nei suoi lineamenti fondamentali. E tuttavia devo dire, per quanto mi riguarda, che stamattina da questo intervento di Pierangelo ho capito meglio una possibile linea di ricerca futura, che poi finisce per riguardare anche i giuristi che mi sono più cari, quindi la scienza giuridica. Lui diceva, in questo seminario noi studiamo concetti, no? E spiegava in che senso studiamo concetti. Studiamo concetti, io direi, innanzitutto quando divengono dottrine, no? Questo passaggio mi sembra importante. Naturalmente si tratta di capire come questo accade. Non tutti i concetti diventano dottrine. Per esempio il concetto di Rechtsstaat in Italia, guardando alla scienza giuridica tedesca, è uno di quei concetti che è divenuto dottrina. È divenuto dottrina nel senso che è divenuto patrimonio di una comunità disciplinare, scientifica, se si vuole dire di specialisti. Io qui ho qualche perplessità sull'uso della parola specialista, ma comunque certamente di una comunità disciplinare, e diviene dottrina perché attraverso questa comunità disciplinare diviene qualcosa di più, appunto, di un concetto, diviene cioè anche una realtà operativa. Si tratta di vedere cosa si intende ora per operativo, però questo lato mi sembra molto importante, perché qui c'è questa circostanza singolare, no? Chi frequenta Trento da tempo sente sempre parlare, diciamo, tra virgolette, molto in astratto. In realtà questa a me è sempre sembrata sede di una ricerca ispirata a criteri di realismo, cioè di ricerca delle strutture fondamentali di una comunità storica, di una collettività. Che si faccia questo attraverso le dottrine non deve sembrare singolare. Secondo me, anzi, è prima di tutto un giusto antifodo contro una storia costituzionale delle strutture materiali che finisca per essere storia di semplici istituzioni del quotidiano, anche se l'espressione mi piace molto in sé, però poi rischia di divenire un certo tipo di microstoria della effettività. Le dottrine consentono di guardare alla pratica costituzionale attraverso un filtro che a sua volta consente di non cadere, a mio avviso, in questo pericolo opposto a quello di una storia tradizionale delle dottrine, che qui giustamente si vuol superare in nome di una storia delle scienze della società e dello Stato. Ora, detto questo, si apre secondo me un campo di ricerca, non è quello di questo seminario in senso stretto, è quello probabilmente, se capisco bene, dell'altro gruppo di ricerca, quello delle università, insomma, che è una cosa della quale io non mi sono mai occupato, probabilmente non ho la capacità di farlo, non ho la pazienza di fare certo tipo di ricerche, però mi sembra un anello fondamentale dentro questo piano di lavoro che Schiera indicava. Perché poi alla fine queste dottrine divengono operative tramite delle istituzioni, insomma, no? E queste istituzioni sono in buona misura, nel caso dei giuristi, l'università. Ora, su questo punto la discussione si apre, nel senso che voi sapete, tutto l'Ottocento, sia tedesco che italiano, ma più ancora quello tedesco, no? Grazie alla lezione iniziale, secondo me rimane fondamentale quella savignana in questo senso, è dominato da questa idea di scientificizzare la prassi, no? Di cioè fare della dottrina giuridica in fondo la fonte di diritto, prima tra le fonti di diritto. Ora, questo naturalmente si tratta di capire quanto sia solo l'ideologia del ceto dei giuristi, no? E quanto invece sia avvenuto davvero. Ecco dove si apre il campo di ricerca. Certo è che qui siamo di fronte a sistemi giuridici che noi chiamiamo, che loro chiamavano Stato di diritto, che hanno però questa valenza piuttosto singolare, cioè di una scienza che vuole essere fonte di diritto, ce l'ha detto Cianferotti nella relazione, vuole addirittura precedere, no, la legge, e attraverso l'interpretazione qualificarla, insomma. Ora, questo dato qui, secondo me, è un dato altamente problematico, che ancora deve essere valutato per quello che è stato veramente. Dove non sono d'accordo nel dire che questo è in sé liberale, cioè questo è un trabocchetto nel quale spesso sono caduti i giuristi tedeschi e gli storici che si sono occupati dei giuristi dell'Ottocento, che cioè una scienza che preceda la legge come fonte di diritto sia in sé liberale è una cosa che debba difendere necessariamente il principio di legalità, come diceva Cianferotti, è una cosa tutta da dimostrare. In realtà, proprio il terreno dell'amministrazione, del quale hanno parlato le due relazioni stamattina, mi sembra dimostrare cose diverse da questa. Cioè, sul terreno dell'amministrazione accade che i giuristi, proprio con l'opera scientifica, io qui sono d'accordo, insomma, con chi dice che il diritto amministrativo, non essendo un diritto codificato, è un diritto nel quale la scienza ha giocato un grosso ruolo. Questo non solo in Germania, anche in Francia, voglio dire, fino dall'indomani della rivoluzione, la scienza e la giurisprudenza insieme, no? Più che il legislatore e la codificazione. Su questo siamo d'accordo. Bisogna anche vedere però la direzione in cui opera questa riflessione scientifica e giurisprudenziale insieme. Ora, a mio avviso, in Italia e in Germania questa riflessione opera nel senso di corrodere il principio di legalità così come era stato classicamente formulato. Insomma, io per questo non so altro che rifarmi alla dichiarazione dei diritti della Rivoluzione Francese, agli articoli 4 e 5, insomma, quella per me è il principio di legalità. Quel principio viene corroso, mi pare, nel corso dell'Ottocento. Ora, nessuno vuole, ben inteso, demonizzare questo, dire che questo è autoritario. Io sono ben lontano da tutto questo. L'amministrazione, lo diceva anche Schiera, è un grosso fattore produttivo, no? Produttivo di obbedienza. Insomma, io mi ritrovo molte cose che lui ha detto all'inizio. Però sta di fatto che questo avviene, forse, dico io, riprendendo la stilizzazione formale della pandettistica, no? Del diritto privato, ma non certo, non certo veicolando nel diritto pubblico gli schemi negoziali del diritto privato. Questo non accade in alcun modo. Insomma, tutta l'opera di Otto Mayer all'inizio di questo secolo è diretta ad espungere dal diritto pubblico il BGB, il codice civile, gli schemi negoziali privatistici, cioè a costruire appunto l'atto amministrativo come atto unilaterale e imperativo. Qui di mezzo ci sono cose molto pratiche, quindi torno a quello che dicevo all'inizio, no? Per esempio, il rapporto di impiego pubblico viene costruito da questa scienza giuridica come un rapporto che si fonda sull'autorità di una delle parti, sulla sua prevalenza rispetto all'altra parte, e riduce l'aspetto giuslavoristico contrattuale, voglio dire, lo schiaccia sull'elemento patrimoniale, cioè sul salario dell'impiegato. Tutto il resto è di diritto pubblico, quindi stiamo attenti, quando si dice contratto di diritto pubblico non è un'applicazione del diritto privato nel diritto pubblico. Quando si dice contratto di diritto pubblico, si dice la volontà di inventare uno strumento specificamente di diritto pubblico in alternativa a quello negoziale privatistico. Questo vale per cose ancora molto più pratiche. Pensiamo alle concessioni di opere pubbliche, che è una cosa molto importante in un'amministrazione che inizia a contrattare con i privati. Questo in Italia, in Germania, alla fine dell'Ottocento. Anche in proprio le cose di Ranelletti che citava Cianferotti sono dottrine che portano a pensare che l'atto di concessione, per esempio, è liberamente revocabile da parte dell'amministrazione, perché non è un rapporto negoziale ed è revocabile con indennizzi molto bassi al privato. Entro in cose molto di dettaglio e molto pratiche. E questo naturalmente crea un rapporto tra amministrazione e privati che è un rapporto di un certo tipo, insomma. Un rapporto in cui, tra due soggetti, ma in cui c'è un super soggetto, un dante causa, che è l'amministrazione, lo Stato. Ora, questo che a me pare semplicemente la realtà delle cose, ecco, cioè, perché poi in realtà questa dottrina è operativa, e su questo sono d'accordo con Cianferotti, cioè riesce ad orientare, direi tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, fino alla Prima Guerra Mondiale, riesce ad orientare effettivamente la giurisprudenza e la pratica amministrativa, ma la orienta in questa direzione, quella unilateral pubblicistica imperativa. Questo secondo me è un dato del quale si deve tener conto per capire che cosa avviene nelle riforme che si agitano attorno all'amministrazione alla fine dell'Ottocento. Io credo che questo abbia a che fare, voglio essere un po' provocatorio, col principio monarchico, cioè che io non vedo come una cosa mitizzata, insomma, tantomeno come una cosa che finisce improvvisamente con la rivoluzione francese, tantomeno con una cosa che è patrimonio dei tedeschi, perché i tedeschi hanno avuto, non hanno avuto la parlamentarizzazione, quindi bisogna arrivare a Weimar. Secondo me nel modello liberale c'è bisogno, proprio perché c'è una società che preme, no? C'è bisogno di una componente autocratica del sistema politico. E nella misura in cui questo non può essere più il monarca, questo deve essere l'amministrazione. Cioè l'amministrazione è quella parte dello Stato che non è corrosa dalla mediazione tra gli interessi economici, che sta al di là e prima di tutto questo. No? Questo liberamente dico essere, no, il nuovo principio monarchico, naturalmente niente più a che fare con la monarchia in sé, anche se vorrei dire soprattutto agli amici tedeschi, in Italia abbiamo sì una parlamentarizzazione, un sistema diverso da quello tedesco, però abbiamo una presenza dell'istituto monarchico ugualmente molto importante, molto importante. E abbiamo nella dottrina una dichiarazione di morte piena del principio monarchico, secondo me solo addirittura nel 1914, cioè in questo diritto pubblico italiano di Santi Romano, dove Santi Romano dice non vige più questo principio, che poi è il principio monarchico, che cioè ciò che non è disposto espressamente dalla Costituzione si presume del monarca, questo è in sé il principio monarchico. Questo nel corso dell'Ottocento non viene affatto distrutto. Quindi voi capite che il principio di legalità ha a che fare con un contesto complessivo di questo genere. Infine vorrei dire questo: io credo che questa dottrina, insieme allo Stato stesso, al suo crescente intervento nella società, forma veramente è veramente una forma di disciplina, di disciplinamento sociale. Io qui ancora non ho le idee chiarissime, ma insomma sono molto vicino alle cose che diceva Schiera all'inizio. Però bisogna anche dire che questa è una vicenda che ha un inizio ed una fine. Cioè io vedo scienza e Stato, nel senso dell'Ottocento, come fortemente apparentati, ed è una vicenda che secondo me finisce quando al binomio scienza-Stato si viene a sostituire un altro binomio, che è quello Costituzione e sistema dei partiti. E questo che svolge una funzione di disciplinamento analogo a quello svolto precedentemente dal binomio Stato-Scienza, insomma. E questo avviene, secondo me, a partire dalla fine della Prima Guerra Mondiale, intensamente negli anni 30, e poi con le costituzioni democratiche. Cioè noi stiamo dentro oggi, secondo me, un orizzonte che non è più quello là. Io questo lo dico perché, non so se ho male interpretato, lo diceva Pierangelo all'inizio, c'è la grande trasformazione alla fine dell'Ottocento. Io questo lo lascerei come un problema aperto, non lo darei per scontato, perché forse questo periodo tra 8 e 900 non è altro che un periodo di intensa trasformazione, ma all'interno dell'età liberale, che io vedo iniziare con la restaurazione e finire con la fine della Prima Guerra Mondiale. Se io dovessi dire qual è il dramma di questi professori italiani di diritto pubblico, direi il 1919, quando loro vedono un regolamento parlamentare che consente e obbligano a formare le commissioni di lavoro del Parlamento in proporzione ai gruppi politici, cioè lì i partiti diventano visibilmente un elemento del sistema di diritto pubblico, e questo è assolutamente incompatibile con la dottrina liberale, che quindi secondo me inizia nell'età della Restaurazione e finisce in un torno di tempo tra il 1919 e il 1930, quando la dottrina dello Stato diviene, o torna ad essere, questo sarebbe lungo il discorso, dottrina della Costituzione, dei suoi principi, e si affida ad un elemento traente che non è più la scienza, non è più il ceto dei professori, ma è il sistema dei partiti, di fronte al quale c'è un grande sconcerto dei liberali in tutta Europa e non solo in Italia. E dico questo per dare l'idea, insomma, se sono riuscito, che questa è una vicenda storica che abbiamo alle spalle, che ha avuto grandissimo rilievo e che tuttavia mi sembra appartenere ad un'età trascorsa, quindi con tutto il fascino e la necessità di studiare, peraltro, un'età trascorsa, ma diversa dalla nostra. Molte grazie a Maurizio. Più avanti proverò a dire se è utile, non so se ob es nützlich ist, dass ich immer mit meinem so schwachen Deutsch eine kleine Übersetzung versuche oder nicht. Wenn es unnützlich ist, kann ich so sehr, sehr gerne. Oder? Nützlich. Gut. Allora, e più avanti, sagt, er stimmt mit unserer Meinung, die Begriffe zu studieren als Stufe der Lehren. Also wenn ein Begriff eine Lehre wird, dann passiert etwas, das wichtig ist. Zum Beispiel der Begriff Rechtsstaat ist für die italienische Rechtswissenschaft oder auch für die italienische Situation eine Lehre geworden. In diesem Sinne sind die Lehren nützlich, um die Grundstrukturen einer Lage zu fixieren. Und in diesem Sinne, zum Beispiel was die Juristen betrifft, sind die Lehren natürlich nur durch Institutionen zu gewinnen, und die Institutionen sind insgesamt die Universität. Gründliche Ausgangspunkt ist der Anspruch Savignys und der gesamten deutschen Rechtswissenschaft, die Praxis zu verwissenschaftlichen. Aber dieser Anspruch ist tatsächlich verwirklicht worden, oder war dieser Anspruch nur eine Ideologie der Juristen? Und insbesondere, und das ist ein bisschen gegen Cianferotti, dieser Anspruch kann wirklich tatsächlich einen solchen Anspruch als liberal definieren? Nach Fioravanti, nein. Er sagt, dass vielleicht, also wahrscheinlich gab es keine direkte Transmission, Übertragung von Instituten des privaten Rechts in das öffentliche Recht, weil das letzte hatte immer ein, also ein Grundprinzip, das Grundprinzip der Autorität in sich. Also das öffentliche Recht kann auch vom Vertrag zum Beispiel sprechen, aber der öffentliche Vertrag ist nicht ein bilateraler Vertrag wie der Vertrag des privaten Rechts, aber ist immer ein Vertrag, der von einem so öffentlichen, autoritären Punkt beginnt, der Staat, die Verwaltung. Und dieser ist der Unterschied. Also man kann eine nominelle Übertragung haben, aber vielleicht nicht eine substanzielle Übertragung vom privaten zum öffentlichen Recht. In diesem Sinne, also Ferravanti sagt, im öffentlichen Recht gibt es immer ein Übersubjekt. Einen Übersubjekt, der Staat ist. Aber er sagt, vielleicht nicht nur der Staat, vielleicht die Verwaltung. Wir haben in den beiden Vorträgen von Vormittag die Frage der Verwaltung als zentrale Frage erkennen und so gekannt. Und was ist diese Verwaltung? Er schlägt vor, dass die Verwaltung die Stelle okkupiert im neuen demokratischen Staat, die im liberalen Staat des 19. Jahrhunderts vom monarchischen Prinzip okkupiert war, also von der Monarchie, vom Königtum. Er sagt, dass das liberale Prinzip braucht immer einen autokratischen Teil. Auch das liberale Prinzip braucht, impliziert einen autokratischen Teil. Wenn der Monarch nicht mehr da ist, wird dieser autokratische Teil von der Verwaltung besetzt. In diesem Sinne, also der Schluss von Herrn Ferravanti ist der folgende. Okay, die Lehre als, sagen wir, Disziplinierung Mittel. Aber die Wissenschaft als institutionalisierte Lehre, sagen wir, können sagen, die Wissenschaft und der Staat sind im 19. Jahrhundert ein Paar, ein sehr also enger Paar. Aber dieser Paar wird im 20. Jahrhundert von einem anderen Paar überholt, ersetzt. Der neue Paar ist der von Konstitution bzw. Verfassung und Parteiensystem. Und das passiert tatsächlich sowieso vom Ende des Ersten Weltkrieges bis zu den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. So, Fioravanti fragt, die große Transformation, die große Wandlung zwischen 19. und 20. Jahrhundert war keine entscheidende Wandlung, weil sie immer innerhalb der alten liberalen Tradition sich bewegte. War vielleicht also das L'apice, das Maximum, ja, der alten Tradition, während nach dem Ersten Weltkrieg stammt eine neue politische Wirklichkeit, die genau die von Konstitution Parteiensystem ist. In diesem Sinne vielleicht gerade das Parteiensystem hat im 20. Jahrhundert und besonders auch nach dem Zweiten Weltkrieg mit der neuen demokratischen Verfassungen, das Parteiensystem hat das alte Wissenschaftssystem des 19. Jahrhunderts, das auch das System des Gelehrtenstandes war, also überholt. Questo era, credo, più o meno quello che ha detto Fioravanti, sono molto grato e siamo d'accordo. Cioè, sono d'accordo, è da discutere, ma io personalmente credo che di essere abbastanza d'accordo, insomma, si tratta di... Benissimo.